yo. Altre parole, un altro beat a bomba, un altro pezzo ancora a fuoco per un'altra tromba. Primo tiro, primo giro, lettere sul papiro che combino all'infinito fino a quando non respiro. Qui, pianeta Dieco pronto per l'esplorazione, carta penna flone, il modulo a levitazione. Conta la rovescia con un click, apro la beak per finire in orbita come la roba Johnny Freak. Spazio, ultima frontiera e muratura, con la fotta butto gas nei miei motori a curvatura, evitando di anni luce la galassia censura, senza rischio di finire nel sistema spazzatura. Yo, veloce città non definita ma infinita, la mia penna è diventata luce e ha preso vita, segno che procede tutto come deve andare, destinazione terra tra asteroidi da evitare. Slalom, salve, shalom, arigato, da qua sopra già si vedono le mani dei miei bro. Nulla si distrugge, quindi nulla si crea, tutto quanto si trasforma quando si accende un'idea. Oh yeah, ferro fusa camionate tra le rime, oppure ferro spesso e rime incastonate. Nulla si distrugge, quindi nulla si crea, tutto quanto si trasforma quando si accende un'idea. Oh yeah, oh yeah. Yeah, oh yeah. Coordinate già inserite, navi nemiche colpite, limito le fuoriuscite delle mie poche ferite. Quelli che m'han detto bravo m'han colpita lo scafo, chi m'ha detto che fai schifo adesso mangia merda a sbafo. Guerre stellari, risvolti particolari, incontro mostri interstellari con forme tentacolari. Preso un altro stronzo che rimane steso, non starebbe KO se si fosse arreso. In posizione controllo la situazione, mi serve più carburante, comincio un'altra canzone. Pure adrenalina la senti quando ti sale, al punto tale da creare un barco spazio temporale. Non c'è più limiti a questa mia conoscenza, più fantastico della più folle fantascienza, cambia tutte le certezze della tua esistenza, modificando anche le basi di questa frequenza. Nulla si distrugge, quindi nulla si crea, tutto quanto si trasforma quando si accende un'idea. Oh yeah, ferro fusa camionate tra le rime, oppure ferro spesso e rime incastonate. Nulla si distrugge, quindi nulla si crea, tutto quanto si trasforma quando si accende un'idea. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sulle mani tutti quanti, la mia nave è un blaster, per sentire la corrente non ti serve un tester. C'è chi spianca e ci va sotto più dello zio Fester. Sono pillole di vita private del blister. Mi dispiace raga, ora me ne devo andare. C'ho pianeti da trovare, galassie da visitare. Spero che il mio viaggio strano non sia stato invano. Rimane questo pezzo mentre ne lontano piano. Piano, Dieco MC. Un saluto ai Maya, un saluto agli umani. Ciao.